Capitolo 25. Un caseggiato anonimo e giallastro, nella prima periferia, riprodotto in serie a ogni incrocio. Mentre Vlados verifica sugli appunti che l'indirizzo sia quello indicato nella cartella clinica dell'ospedale, Bogdanov contempla il portone al di là della strada. «Come avete detto che si chiama?» «Igor Pashin», risponde Vlados. «Professione?» «Non c'è scritto». Nato a Mosca nel 1883. L'indirizzo è questo. Uno accanto all'altro. Chiusi nei cappotti e con i cappelli in testa, paiono due manichini che spuntano dalla neve, o i personaggi di un'opera teatrale. Attendono ancora un istante prima di attraversare la strada, titubanti per ciò che potrebbero trovare. Un caso di tubercolosi dello stesso tipo di Danny. Una coincidenza? Una lontana parentela? O magari una più stretta? Bogdanov azzarda il primo passo per annullare la distanza che lo separa dalla verità. Se questo Pashin fosse il padre naturale della ragazza? Se fosse Volok? A Vlados non importa. Per lui è soltanto la ricerca scientifica che conta, e la carriera. Trovare un riscontro, aggiungere carne al fuoco della conoscenza, non deve districarsi nella selva della propria storia. I due procedono appaiati, attraverso la strada e poi nel cortile antistante il palazzo. L'andito è ampio e cupo. C'è puzzo di umidità, misto a un vago odore di cavolo bollito. Sulla parete è esposto l'elenco degli inquilini, illuminato da un raggio di luce che filtra attraverso una lunetta sopra il portone. Bogdanov scorre i nomi col dito. Pashin, secondo piano. Salgono i gradini sconnessi, coperti con una guida rossa e lisa, sfilacciata in più punti, fino a raggiungere un corridoio e la porta dell'appartamento. Ecco. La distanza è annullata. Ora sapranno. Vlados bussa. Pochi colpi secchi. Silenzio. Bussa ancora, questa volta più forte. Niente. La delusione è palpabile sui volti dei due uomini. Aspettiamo, propone Bogdano, indicando una cassapanca lungo la parete. In quel momento si apre una porta sul lato opposto e sbuca un volto rugoso di donna. Occhi accesi, chiari, che scrutano i due uomini dalla testa ai piedi. «Buonasera», si affretta a dire Bogdanov toccandosi la tesa del cappello e offrendole la propria aria distinta. La donna non risponde. «Chi cercate?» domanda invece con voce roca. «Igor Pashin, ci risulta che abiti qui». L'espressione dell'anziana rimane impassibile, ma almeno annuisce, mentre si sofferma sui tratti arcigni di Vlados, che paiono non ispirarle fiducia. «Abitarci ci abita, ma ha degli orari strani. Spesso manca per giorni». «Con lui vive qualcun altro?» si azzarda a chiedere Vlados. Lei lo degna appena di un cenno di diniego. «Voi chi siete? Cosa cercate da Pashin?» Bogdanov risponde nel modo più affabile che gli riesce. «Siamo medici dell'istituto trasfusionale. Abbiamo bisogno di parlargli, è una questione di salute». «È malato?» domanda la donna. «Contagioso?» «No, no, non c'è nulla da temere», si affretta a rispondere Bogdanov. «Tuttavia dovremmo parlare con lui». «Chissà quando torna», dice la donna. «Se torna». «Lasciatemi un messaggio, glielo riferirò». Vlados non trattiene un risolino sarcastico. «Lo aspetteremo», dice. Quindi siede sulla cassapanca e si disinteressa della donna. Bogdanov invece le rivolge un sorriso. «Per caso sapete dove lavora?» «E chi lo sa? Non si sa nemmeno che lavoro faccia. Qualcuno dice che è operaio in acciaieria, qualcun altro che è impiegato in un ufficio. Non è che sia proprio un chiacchierone. E poi gliel'ho detto, esce presto e torna tardi. A volte nemmeno torna». L'inquilino misterioso deve essere al centro delle chiacchiere del palazzo. Non potrebbe essere altrimenti. «Dunque aspetteremo», ribadisce Bogdanov, e siede anche lui. Un attimo dopo sente la porta richiudersi, ma sarebbe pronto a scommettere che la vecchia ha l'orecchio appoggiato al legno per cogliere ogni parola. Vlados accende una sigaretta, mentre Bogdanov fissa la soglia che lo separa dalla vita di Igor Pashin, chiunque egli sia. Una vita solitaria, spazi usati per un breve riposo, una camera da letto, la cucina, i servizi, lavarsi i denti, spegnere le luci. Poi il lungo silenzio diurno, vuoto come quello in cui sono immersi adesso. «Chissà se torna», mormora. Mentre lo dice, si sente sbattere il portone in fondo alla tromba delle scale. Vlados e Bogdanov si avvicinano al parapetto. La luce spiove da un lampadario in alto, appena sufficiente a illuminare i gradini. A fatica si intravede una donna giovane con due borse di vimini. Le rivolgono un cenno di saluto, mentre prosegue per il piano superiore. I due si risiedono sulla cassapanca. «Siete riuscito a scoprire qualcosa di più dalla ragazza?» domanda Vlados, con aria distratta. «No, la sua recita è perfetta, una coerenza invidiabile», sogghigna. «Perfino per me, che sono l'autore dei romanzi da cui ha tratto spunto. Dubito che sia possibile risalire alla sua provenienza, non saprei da dove cominciare». Vlados sbuffa fuori il fumo. «Con una guerra e una rivoluzione nel mezzo sarebbe difficile, anche se non fosse matta». Bogdanov annuisce, meditabondo, poi stende le gambe sulla guida rossa. «Sapete, all'inizio provavo pena per lei, ora non più». «Come potete non compatirla?» obietta il giovane medico. «Senza un principio di realtà è destinata a soffrire, a farsi schiacciare dal mondo». Bogdanov incrocia i piedi e si rigira il cappello tra le mani. «Il mondo l'aveva già schiacciata. La fantasia l'ha aiutata a difendersi». «L'ha aiutata a evadere dalla realtà, vorrete dire», lo corregge Vlados. «Se la realtà è una prigione, è così sbagliato cercare di evadere?» domanda Bogdanov. «Compito dell'umanità è distruggere la prigione», risponde Vlados, diligente. «Cambiare la realtà». «Sì, è vero», conviene Bogdanov. «È quanto ci dice il nostro buon marxismo. Ma per farlo bisogna essere capaci di immaginare un mondo senza prigioni. E Danny lo immagina e come? Quanti di noi possono dire lo stesso?» Vlados non obietta, pare riflettere su quelle parole e Bogdanov ne approfitta per proseguire. «Non la compatisco, no. Posso intuire la sofferenza che ha prodotto una simile fantasia e dispiacermene, ma ammiro la capacità della sua mente di volgere la sofferenza verso l'invenzione fantastica». Vlados spegne il mozzicone nel vaso di una pianta rachitica. «Temo che il vostro giudizio sia condizionato dal fatto che questa fantasia omaggia la vostra opera narrativa». «Addirittura la completa e la prosegue!» «Ecco», dice Vlados. Bogdanov stira la schiena. «Quando rincontrai Leonid Volok 20 anni fa, a Capri, aveva subito un trauma. Anche nel suo caso era stata la sofferenza spingere la mente su un altro pianeta. Io ho dato forma letteraria al suo miraggio e adesso quel miraggio è tornato indietro tramite la figlia. Se davvero è lui, il padre di Danny. In un certo senso le storie di Nakun hanno continuato a viaggiare attraverso il tempo e lo spazio, a prescindere da me e dai miei romanzi». «Il vostro elogio della follia e della sofferenza è pericoloso», interviene Vlados. «Oh, mi guardo bene dall'esaltare la sofferenza», si difende Bogdanov. «Ho subito anch'io un trauma del genere. So bene che non ha niente di buono. E nel mio caso non ha portato ad alcuna esplosione creativa, soltanto alla nevrastenia». Vlados si volta verso di lui, sorpreso dalla rivelazione. «Non lo sapevo. È una patologia piuttosto comune tra i reduci di guerra». «Ho letto parecchi articoli sull'argomento», mormora Vlados. «Ignoravo che ne aveste sofferto». «Ho impiegato mesi a uscirne, semmai si può dire di esserne usciti». Il rumore del portone gli spezza le parole in bocca. Vanno ad affacciarsi sul piano scale. Passi che salgono, strascicati. Mentre si avvicina, diventa sempre più nitida una figura pesante, quella di un uomo di mezz'età, corpulento, che li saluta passando loro davanti. Bogdanov e Vlados lo osservano camminare fino a due porte più in là. Falso allarme. L'uomo infila la chiave nella toppa ed entra. Vlados si accende un'altra sigaretta e prende a passeggiare su e giù, sbuffando il fumo verso il soffitto. «Siete stato in prima linea?» domanda secco il più giovane, non appena Bogdanov torna seduto. «In prima linea e nelle retrovie, sottufficiale medico». L'espressione sulla faccia del direttore non invita Vlados a indagare oltre, anche perché in quel momento una porta sul corridoio si apre e un volto di uomo anziano fa capolino, incuriosito dal chiacchiericcio, ma appena si sente addosso le due paia d'occhi ritrae la testa come una tartaruga nel guscio. «Non credo verrà», dice Bogdanov, quando si ritrovano soli. Vlados spegne la seconda sigaretta nel vaso della pianta, senza replicare, ormai spazientito. Dalla tasca estrae un blocco note e una matita e verga rapido alcune righe su uno dei fogli, che poi stacca e infila sotto la porta di Pashin. «Ecco, gli ho scritto che ne va della sua salute. Ci contatterà, non credete?» Bogdanov sta per rispondere, ma il portone da basso sbatte forte. Ancora passi che salgono le scale. I due vanno ad affacciarsi. La sagoma di un uomo. Quando è sul pianerottolo del primo piano, il fascio di luce del lampadario illumina un guanto sul corrimano, cappotto, sciarpa, col bacco. L'uomo si ferma e guarda in su. Nessuno si muove, parla, respira. Bogdanov sente rizzarsi i capelli sulla nuca. L'uomo si volta e prende a scendere. «Igor Pashin?» domanda ad alta voce Vlados. Le parole rimbombano nelle scale, l'uomo allunga il passo. Senza bisogno di consultarsi, i due partono rapidi, ma Vlados inciampa sugli scalini. Bogdanov si ferma ad aiutarlo, ma l'altro gli fa cenno di proseguire. Il direttore si affretta fino al portone che si è già richiuso dietro l'uomo col colbacco. Lo apre e si precipita in strada. Appena in tempo per vederlo girare l'angolo. Corre, rischia di scivolare sulla neve, ma riesce a mantenere l'equilibrio. Arrivato all'incrocio, l'uomo è già sparito tra la gente che torna a casa dal lavoro. Bogdanov rimane a osservare il proprio fiato che si perde nell'aria della sera, mentre Vlados lo raggiunge zoppicando. «Perché è scappato?» domanda Bogdanov, stranito. «Ci ha presi per due poliziotti. Non capisco». «Su via, Bogdanov. Le abitudini strane, le assenze, il fatto che nessuno sappia dove lavori. Scommetto quello che volete che Pashin è un membro dell'opposizione, un personaggio losco. Questa sì che è sfortuna». Bogdanov non replica. Ascolta il battito del proprio cuore che rallenta, il fiato che torna regolare, il freddo sulle guance. «L'abbiamo mancato di un soffio. Speriamo legga il vostro biglietto». Vlados scrolla la testa sconsolato. «Se è spaventato, non si farà vivo. Scommetto che non tornerà nemmeno qui». Con stizza scalcia la neve sul selciato, poi mugugna per il dolore alla caviglia.